Friuli nel mondo. Trasmissione dedicata agli emigrati nelle Americhe. Artigianato armonioso. Testo di Chino Ermacora. Partecipano alla trasmissione di Friuli nel mondo padre Davide Maria Turoldo, il professore Eligio Ciriani violino, il maestro Don Albino Perosa organo e il trio udinese Lino Battistella tenore, Gino Pupil secondo tenore, Enrico Carnielli basso. Tempo di primavera, nella piccola patria, o friulani residenti tra le nevi dell'Alaska e della terra del fuoco. Tempo di speranze, cui s'addice la voce degli strumenti che escono dalle mani degli artigiani, esaltati in una recente pubblicazione della Camera di Commercio di Udine, compendio di una genialità giustamente apprezzata. Tutti la conoscono, tutti vi conoscono. Muratori e carpentieri, terrazzai e mobilieri, fabbri, decoratori. E tutti vi vogliono collaboratori nella costruzione di un mondo migliore, nel quale ogni uomo abbia una casa ed avverta nel cuore la primavera cantata dal poeta. Il sangue friulano rifluisce per invisibili vene alla patria del cuore. Davanti al microfono di Friuli nel mondo, voci che si rivolgono ai lontani. Sangue che chiama il medesimo sangue. Voce biel, voce biel, ci sarà Udi. Ottavio Valerio da Osoppo ai presidenti e ai soci della FAMEE e dei Fogolars di Ottawa e di Toronto. Trasmettete, ve ne prego, gli sprei, il saluto e il ringraziamento di Friuli nel mondo all'arcivescovo Ildebrando Antoniutti, delegato apostolico del Canada, Purlan di Nimis, e pregatelo di onorarci con un breve messaggio radiofonico che ritrasmetteremo in questa rubrica a tutti i friulani delle Americhe. Grazie, tignisi d'ogne, voleisi ben. Ferruccio Bernardis, da Gorizia al presidente e ai soci della FAMEE Furlane di New York. Sono il sindaco di Gorizia. A tutti voi in ascolto, nella vostra bella sede, un viva di cuore. Nella devozione immutata e immutabile al Friuli e al motto che vi onora. Ibis redibis, andrai e tornerai come le rondini, come gli scisilis, nunzie di primavera. Luigi Comuzzi, al primate delle Indie, l'arcivescovo Riccardo Pittini, residente a San Domingo. Memore del nostro felice incontro udinese, le rinnovo auguri e saluti anche a nome del sindaco di Udine, degli amici salesiani, della natia Tricesimo, dell'intero Friuli che, a mio mezzo, la esortano a ricordarne nella preghiera tutti i figli emigrati. Chino Ermacora, da Udine, a Lamberto Peruzzi, Caracas. A te, alla signora Ernestine, agli amici, la promessa di approdare al tuo ristorante nella certezza di trovarvi i cibi dell'anima oltre a quelli del corpo. Mandi, Berto, mio buon e bravo squelano. Lo stesso ai presidenti e ai soci della Società Friulana di Buenos Aires e del Circolo Friulano di Avellaneda. Se il mio desiderio avrà, come spero, il vento in poppa, faccio conto d'occuparmi quanto prima di voi e del vostro lavoro. Nella mia valigia c'è sempre una macchina da scrivere, dovuta naturalmente alla generosità di un friulano. Arrivederci, caro Blasutto in via Cacimaggio. Arrivederci, caro Xian, in avenida Mitre. Un abbraccio a todos da parte mia e dell'intero Friuli. Gioventut come a ogni. Ed ora, o amici che vorremmo singolarmente salutare, la villotta della bella stella, della stella dell'amore, cantata anche da Sacco. O tu stelle, biele stelle, ne rende l'aria dolente un assolo del violino costruito senza scuola alcuna né esempio di maestri, da Giuseppe Toppi da San Vito al Tagliamento. Da chi avrà appreso questo fattore di campagna l'arte delicata del liutaio? Forse dagli uccelli che alleva per rifornire la sua mobile uccellanda? Se non che una sola corda non dà la misura della sonorità dello strumento, la quale è perfetta quando esso è ancora fresco di vernice, quasi contasse 100 anni come i violini dei più celebrati di Utah. Segreti? Nessuno, se si eccettuano le sensibili dita dell'artefice che appassionatamente lo trae dall'acero e dall'abete. 4 corde ora vibrano nelle variazioni della Steiner. Un ballabile che, originario della Stiria, come dice il nome, doveva assurgere a ballo friulano per eccellenza. Variazioni dovute alla fantasia del nostro Eligio Ciriani.